Eppure Cristo Gesù non solo assomiglia a Yahweh, ma è Yahweh stesso. Credo che, dopo aver valutato queste riflessioni, non sia possibile trarre altre conclusioni, conclusioni del resto approvate da tanti studiosi delle scritture. 1. Cristo Gesù è il creatore come Yahweh. Isaia 42:5 così dice Dio, Yahweh, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra e le cose che essa produce, che dà il respiro al popolo che è su di essa e la vita a quelli che in essa camminano. Isaia 45:12-18, Salmo 96:5, 115:15, Isaia 44:24, 51:13, 54:5, Geremia 51:15. Efesini 3:9, Dio ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Giovanni 1:1-3, Colossesi 1:16. A ogni religione è comune il concetto che ogni cosa sia creata da un Dio, termine questo che esprime qualcosa di vago e impersonale. Secondo la Bibbia, invece, il creatore è una persona ben precisa, che si è presentata con il nome proprio Yahweh, e si definisce Elohim, cioè una divinità, o un Dio. Di conseguenza, quando i cristiani dicono che Dio ha creato ogni cosa, esprimono una verità, che deve essere spiegata. Poiché il termine Dio in ebraico ha per lo più il significato di una pluralità, e poiché nella pluralità della divinità vi è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, occorre specificare che il creatore o l'esecutore effettivo di ogni cosa, secondo l'Antico Testamento, è Yahweh, il quale, nel Nuovo Testamento, viene definito la parola, vale a dire Cristo. 2. Cristo Gesù è il Salvatore come Yahweh. Isaia 43:11, io sono Yahweh, e all'infuori di me non c'è Salvatore. Isaia 43:3, 45:11-15:21, 49:26, 60:1-6, Osea 13:4. Giovanni 4:42, i samaritani dicevano alla donna, non è più a motivo delle tue parole che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Luca 2:11, Atti 4:12, 13:23, Filippesi 3:21, Timoteo 4:10, Tito 1:4, 3:4, 1, Giovanni 4:14. Chi può salvare l'uomo, colui che è l'unico salvatore, è solo Yahweh. Non c'è nessun altro salvatore. Eppure, secondo i primi cristiani ebrei Sabra, chi ha potuto salvare l'umanità dai suoi peccati? L'unico Salvatore è Gesù Cristo. Poiché anche Gesù è partecipe della natura divina trinitaria, la Scrittura afferma che Dio ha mandato suo Figlio, ma l'esecutore della salvezza è solo Cristo Gesù, cioè Yahweh. 3. Cristo Gesù è il primo e l'ultimo come Yahweh. Isaia 44:6, così dice Yahweh, il Re d'Israele, suo Redentore, Yahweh degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. Isaia 41:4, 48:12. Apocalisse 1:17. Quando lo vidi, Gesù Cristo, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Apocalisse 1:17. 2:8, 22:13. Non vi può essere altro essere vivente umano e divino che sia primo e ultimo oltre Yahweh. Eppure, Gesù Cristo si è autodefinito il primo e l'ultimo. O è partecipe della stessa natura divina, eterna e immutabile della Deità, oppure ha detto la più grande menzogna che un uomo poteva dire. 4. Cristo Gesù è il buon pastore come Yahweh. Salmo 23:1. Yahweh è il mio pastore, nulla mi mancherà. Giovanni 10:11, io sono il buon pastore, il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Giovanni 10:44, Ebrei 13:21, Pietro 5:4. Non vi sono dubbi che in tutto l'Antico Testamento Yahweh si attribuisca la definizione di essere il pastore di ogni anima. Eppure, Gesù ha detto sì essere lui il buon pastore che avrebbe deposto la sua vita per le pecore. Nessun altro essere vivente ha mai sostenuto di essere il pastore di tutti gli uomini. Anzi, ha detto ai discepoli, ne fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida. Il Cristo. Matteo 23:10. 5. Cristo Gesù ha l'autorità di risuscitare chi vuole, esattamente come Yahweh. 1 Samuele 2. Se Yahweh fa morire e fa vivere, fa scendere nello Sheol e ne fa risalire. Giovanni 5:21 Gesù disse, Putossisse. Come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio. Dà la vita a chi vuole. Matteo 25:31-46. Solo il Creatore ha il potere sulla morte delle sue creature e su tutto l'universo, e questo è Yahweh. Eppure, Gesù ha detto di avere la stessa autorità del Padre. Nessuno può essere paragonabile al Padre. A meno che questo non sia Yahweh. 6. Cristo Gesù è il giudice come Yahweh. Salmo 9:7-8. Ma l'Eterno rimane per sempre. Egli ha stabilito il suo trono per far giudizio. Egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Gioele 3:11-12 Salmo 96:10-13-98:9. Giovanni 5:27. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Egli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Matteo 25:31-46. Atti 17:31. Nessun essere angelico o divino che sia può giudicare gli uomini all'infuori di Yahweh. Gesù ha detto espressamente che il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Giovanni 5:22. Perciò sarà Lui che giudicherà gli uomini perché nel Consiglio Eterno, Geremia 23:18, Isaia 28:29, si è e deciso che il Figlio di Dio sia il giudice. Come avrebbe potuto consigliarsi Yahweh se era solo? Avrebbe potuto Yahweh consigliarsi con delle creature angeliche, create da Lui? La risposta è che Yahweh, cioè Cristo Gesù, il Figlio di Dio, nella relazione trinitaria si sia consigliato con il Padre e la persona dello Spirito Santo. 7. Cristo Gesù è la luce, come Yahweh. Isaia 60:19-20. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né la luna ti illuminerà più col suo chiarore. Ma Yahweh sarà la tua luce eterna e il tuo Dio la tua gloria. Giovanni 8:12. E Gesù di nuovo parlò loro, dicendo, Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Solo Yahweh può essere la luce degli uomini, la luce eterna. Eppure Gesù ha detto di essere la luce del mondo, cioè di tutti, e non solo di qualcuno, come potrebbe sostenere chi si ritiene un profeta. La luce è ciò che ci fa vedere e comprendere. Come si potrebbe comprendere la Deità senza Yahweh? Ecco perché l'Evangelista Giovanni ha scritto nel suo Evangelo «Nessuno ha mai visto Dio». L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Giovanni 1:18. Yahweh e Gesù Cristo sono la stessa persona. 8. 9. Cristo Gesù e l'Io sono come Yahweh. Esodo 3:14. Dio disse a Mosè, Io sono colui che sono. Poi disse, Direi così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Isaia 42:8-45:6. 45:18, 48:12-17, 51:15. Giovanni 8:58, Gesù disse ai giudei, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Giovanni 4:26, 6:20, 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:12, 8:18, 8:24, 8:128, 10:11, 10:14, 11:25, 13:19, 14:6, 15, 1 Atti 9, 5:18-10, 22:8-26, 15 Apocalisse 1:8, 1:17, 2:23. Nessuno, sia esseri angelici che uomini, ha attribuito a se stesso. Tale espressione. Eppure Gesù decine e decine di volte ha definito se stesso «Io sono», per far comprendere che lui era Yahweh incarnato. Isaia 9, 6. Alcuni studiosi affermano che il nome Yahkachuyace viene dal verbo essere e include i tre tempi di tale verbo, cioè il passato, presente e futuro. Pertanto questo nome significa colui che era, che è e che sarà, in altre parole, l'Eterno. Chi ha una certa dimestichezza delle scritture, per associazione di idee, avrà subito pensato a ciò che l'autore della lettera agli ebrei ha scritto, non a caso, riguardo a Gesù Cristo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13, 8 conf. Apocalisse 1, 4, 8, 4, 8. Di nessun essere umano è stato detto questo, e a nessuno è stato fatto l'accostamento con Yahweh se non a Cristo Gesù. 10. Cristo Gesù riceve la gloria come Yahweh. Isaia 42. 8. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. 48. 11. Giovanni 17. 1 e 5. Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse, «Padre, l'ora è venuta. Glorifica il Figlio tuo, affinché anche il Figlio glorifichi te. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te, della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Una divinità per essere tale deve essere glorificata. Yahweh ha una gloria che non può essere condivisa a nessun'altra creatura. Eppure Gesù chiese al Padre di glorificarlo di quella gloria che aveva prima della fondazione del mondo. Nessun essere inferiore al Padre avrebbe chiesto questo, se non Yahweh, cioè Cristo, che è partecipe della stessa natura divina. 11. Cristo Gesù è il Redentore come Yahweh. Isaia 41. 14. Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele. Io ti aiuto, dice Yahweh. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Salmo 19, 14. Isaia 43, 14. 44, 6. 44, 24. 47, 4. 48, 17. 49,7, 49,26, 54,5,8, 61,6, 63,16, Geremia 50, 34, Osea 13 e 14. 1 Pietro 1 e 18,19, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o d'oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue. Non vi è dubbio che Yahweh sia il Redentore per eccellenza, che ha liberato il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Eppure i primi cristiani attribuivano a Gesù il loro riscatto, la loro liberazione da una vita insulsa e piena di errori. 12. Cristo Gesù è lo sposo, come Yahweh. Isaia 54, 5. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è Yahweh degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. Osea 2, 16. Matteo 9 e un quarto. E Gesù disse loro, possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Matteo 25 e 1. Giovanni 3 e 29, 2 Corinzi 11, 2 Efesini 5 e 22 e 32, Apocalisse 21, 2. Yahweh si è attribuito il termine di sposo del popolo di Israele, attribuzione che nessun'altra divinità si è mai data rivolgendosi agli uomini. Eppure Gesù ha detto più volte di essere lo sposo di coloro che avrebbero posto fede in Lui, di essere lo sposo della Chiesa. Vi possono essere due mariti per la Chiesa? Se Cristo è Yahweh, allora vi è un unico sposo. 13. Cristo Gesù è la roccia, come Yahweh. Deuteronomio 32, 30-31. Come potrebbe uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga? 10.000, se non perché la loro roccia li ha venduti e Yahweh li ha consegnati al nemico. Poiché la loro roccia non è come la nostra roccia, i nostri stessi nemici ne sono giudici. Deuteronomio 32, 4, 32, 15 e 18, Isaia 8, 13, 14, 26, 4. 1 Corinzi 14, 4. Tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Matteo 16 e 18, Luca 6 e 48, Romani 9 e 33, 1 Pietro 2, 7. Il termine roccia non è un sostantivo rivolto alla parte più dura della crosta terrestre, ma è un nome proprio, appellativo di Yahweh. I primi cristiani ebrei, proprio perché erano coscienti di questo, definivano Gesù, la roccia, identificandolo con Yahweh. 14. Cristo Gesù perdona i peccati, come Yahweh. Geremia 31-34. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo, conoscete Yahweh, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice Yahweh, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Numeri 14 e 20, Isaia 43, 25, Daniele 9, 9. Marco 2, 7 e 10. Perché mai costui parla in questo modo? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo? Marco 2, 5, Luca 7, 48. Nessuna creatura umana ha mai pensato di perdonare i peccati perché questi li poteva perdonare solo Yahweh. Cristo Gesù, per far comprendere di essere Yahweh, perdonava i peccati nonostante i religiosi del suo tempo ne fossero scandalizzati. Il cattolicesimo, attribuendosi falsamente il diritto di perdonare i peccati per ordine e nel nome di Cristo Gesù, conferma indirettamente che il Figlio di Dio è Yahweh. 15. Cristo Gesù è adorato dagli uomini e dagli angeli, come Yahweh. Salmo 29, 2. Date a Yahweh la gloria dovuta al suo nome, adorate Yahweh nello splendore della sua esse a Nuovo Testamento. Genesi mezzanotte 26, Esodo 24, 1, Salmo 99, 9, 148, 1 a 2. Ebrei 1, 6, e ancora, quando introduce il primogenito nel mondo dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Matteo 28, 16, 17. Ora gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, e, vedutolo, lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Matteo 8, 2, 15 e 26, Giovanni 9, 38. E, fuor di dubbio che l'adorazione spetti solo a Yahweh, eppure Gesù fu adorato come Dio. Se Gesù non fosse Yahweh, lasciando che lo adorassero, si sarebbe macchiato del crimine più grande che un uomo potesse commettere, e a loro volta i giudei suoi discepoli del peccato più grave imputabile a un credente. Ma quando i primi giudei sabra cristiani adoravano Cristo, sapevano che stavano adorando anche il Padre e la persona dello Spirito Santo. 16. Cristo Gesù è invocato in preghiera come è invocato Yahweh. Salmo 99. Se Mosè ed Aaronne furono fra i suoi sacerdoti, e Samuele fra quelli che invocarono il suo nome, essi invocarono Yahweh ed egli rispose loro. Salmo 86, 5, 145, 18. 1 Corinzi 1, 1, 2. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, loro Signore e nostro. Atti 7, 59, 9 e 14, 21, 22 e 16, 2 Timoteo 2 e 22, Romani 10 e 13. Era normale che grandi uomini di Dio, come Mosè, Aaronne, Samuele, Davide, invocassero Yahweh nelle loro difficoltà e nel culto, ma non è normale che altri giudei invocassero nella loro espressione religiosa e nelle loro difficoltà Cristo Gesù. A meno che i primi cristiani sapessero che Gesù Cristo è Yahweh, cioè lo stesso Dio che invocavano i santi dell'Antico Testamento, i primi cristiani ebrei, sabra invocando Gesù Cristo, testimoniavano che la loro fede non solo era sempre la stessa, ma anche il proseguimento della fede ebraica. 17. Cristo Gesù è il creatore degli angeli, come Yahweh. Salmo 148, 1 a 5. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti. tutte queste cose. Lodino il nome dell'Eterno, perché egli comandò, ed esse furono create. Colossesi 1 e un quarto, Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, e in vista di Lui Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. È normale che Yahweh, nel dare origine a ogni cosa, abbia creato anche gli angeli, e i pini cristiani vedevano l'esecutore di ogni cosa nella persona di Cristo Gesù, quale agente del Cristo Gesù è confessato Signore come Yahweh. Isaia 45, 22, 23. Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio, e non c'è e alcun altro. Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia, e non sarà revocata. Ogni ginocchio si pierà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. Filippesi 2, 9, 11. Perciò anche Dio ha sovranamente innalzato Cristo e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature. O cose, celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che Yahweh dica di essere Dio, l'unica divinità, e che ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui, è conforme alla sua rivelazione, ma che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo è possibile? Solo se, diversamente, abbiamo due persone diverse alle quali l'uomo piegherà il suo ginocchio. 19. Cristo Gesù è il Santo d'Israele come Yahweh. Isaia 30, 15. Poiché così dice il Signore, Yahweh, il Santo d'Israele, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Isaia 1, 4, 5, 24, 10, 20, 12, 6, 30, 12, 15, 37, 23, 41, 14, 16, 20, 43, 3, 14, 54, 11, Salmo 99, 3, 5, 9. Apocalisse 3, 7 e all'angelo della Chiesa in Filadelfia scrivi, queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Marco 1 e 24, Luca 1 e 35, 4 e 34, Giovanni 8, 46, Atti 2 e 27, 3 e 14. 4 e 27. Nessuno può mettere in dubbio che Yahweh è santo, tre volte santo, come nessuno può mettere in dubbio che Gesù non ha mai commesso un peccato e viene chiamato il santo. O Gesù Cristo è stato migliore e più santo di Yahweh, perché egli era anche un uomo, e nessun essere umano può essere perfetto, oppure Cristo Gesù, uomo, è Yahweh. 20. Cristo Gesù è il Re come Yahweh. Isaia 43, 15. Io sono Yahweh, il vostro Santo, il Creatore d'Israele, il vostro Re. Zaccaria 9, 9. 14, 9, 16. Apocalisse 17, 14. Essi combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Matteo 2, 2, 27, 11, Giovanni 12, 13, 15, 19 e 19, Apocalisse 19 e 16. È normale che Yahweh sia il Santo, il Creatore e il Re d'Israele. Eppure Gesù ha detto di essere sia il Santo, sia il Creatore, sia il re del popolo di Israele. O il popolo di Israele ha due re, oppure Gesù è Yahweh. 21. Gesù Cristo è la pietra d'inciampo come Yahweh. Isaia 8, 13, 14, Yahweh degli eserciti, lui dovete santificare. Sia lui il vostro timore, sia lui il vostro spavento. Egli sarà un santuario ma anche una pietra d'intoppo, una roccia d'inciampo. Per le due case di Israele, un laccio, una trappola per gli abitanti di Gerusalemme. 1 Pietro 2, 2, 7. Nella scrittura si legge infatti, ecco, Io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo, pietra di inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere. Non vi è ombra di dubbio che la pietra angolare alla quale si riferisce la Scrittura sia Gesù Cristo. Efesini 2, 20, Atti 4, 10, 11, mentre Isaia si riferisce a Iave. Dato che non vi possono essere due pietre viventi e di intoppo, per forza di cose, Iave è Cristo Gesù. 22. Cristo Gesù è colui che tornerà e metterà il piede sul monte degli Ulivi come Iave. Zaccaria 14, 3. Poi Iave uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte, nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Atti 1 e 11, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Non tutti hanno compreso che Iave scenderà di persona sul monte degli Ulivi posandovi i suoi piedi. In nessun altro libro religioso viene detto che un altro Dio poserà i suoi piedi sul monte degli Ulivi, in conformità a ciò che affermano i primi cristiani nei loro scritti. Essi hanno testimoniato più volte che Gesù Cristo tornerà dal cielo posando i suoi piedi sul monte degli Ulivi. Gesù Cristo è dunque Iave, che dovrà tornare con un corpo umano glorioso. 23. Cristo Gesù è il Signore dei Signori come Iave. Deuteronomio 10 e 17. Poiché l'Eterno, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signor dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non usa alcuna parzialità e non accetta regali. Apocalisse 17, 14. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. 19 e 16. Mosè chiama espressamente Iave, Signore dei Signori, che in Apocalisse viene riferito a Cristo, quale agnello di Dio e parola di Dio. Di signori ce ne sono tanti, ma uno solo è Signore dei Signori, Iave. 24. Cristo Gesù è la voce del deserto come Iave. Isaia 43, la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Luca 3, 4, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, che dice, ecco la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. La via che Giovanni il Battista ha preparata era di Iave, e che gli Evangeli attribuiscono a Gesù Cristo. Per i primi cristiani, Iave è Gesù Cristo. 25. Gesù Cristo è stato trafitto come Iave. Zaccaria mezzogiorno 10. Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto faranno. Quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. Giovanni 19, 36-37. Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il profeta Zaccaria dice che Iave sarebbe stato crocifisso, Isaia 53,5, e questo si è realizzato in Cristo Gesù. È evidente che chi vede nel tetragramma solo un nome per definire la Trinità non riesce a conciliare le cose, ma dato che Iave è il nome proprio di una delle tre persone della Trinità, i conti tornano che Iave è stato crocifisso. 26. Gesù Cristo è salito, ha fatto prigionieri e ha dato doni agli uomini come Iave. Salmo 68, 18. Tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini anche fra i ribelli, affinché tu, o eterno Dio, possa dimorare là. Efesini 4, 8. Per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Il Salmo si riferisce chiaramente a Yahvé, mentre l'Apostolo Paolo attribuisce la citazione a Gesù Cristo. Dunque, Cristo Gesù non solo assomiglia a Yahvé, ma sia lui che i primi cristiani ebrei Sabra hanno sostenuto che Yahvé è Cristo. Vi è forse ancora qualche dubbio che Yahvé non sia Gesù Cristo? Qualcuno potrebbe pensare che è una verità assodata, perché molti testi di teologia sostengono che Gesù Cristo è anche Yahvé, ma non è la stessa cosa che dire che Yahvé è Cristo o Gesù. Se io affermo che Isaia è un profeta, questo non esclude che anche Geremia o Zaccaria siano dei profeti, ma se dico che il profeta è Isaia, questa dichiarazione esclude che ci siano altri profeti oltre Isaia. L'ultima dichiarazione è radicale, così per affermare la divinità di Gesù Cristo non è sufficiente trovare alcuni brani tipologici della parola di Dio e individuarvi la figura di Gesù. Mettere in evidenza la presenza occasionale di Cristo in certe apparizioni, o dichiarare che vi è piena identità fra la figura di Yahvé e la figura di Gesù, ma è indispensabile dimostrare che il nome proprio della divinità degli ebrei, cioè Yahvé, non è un semplice nome per identificare le tre persone della Trinità, ma il nome proprio di una delle tre persone della Trinità, cioè Gesù Cristo. Non è neppure possibile trovare nel nome proprio di Yahvé la persona del Padre di Gesù. Giovanni 11:27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Se nessuno conosce chi è il Padre se non il Figlio, com'è possibile che i santi dell'Antico Testamento abbiano conosciuto la persona del Padre prima di Cristo Gesù se Gesù non lo aveva ancora rivelato? Per forza di cose Yahvé non è il Padre. Giovanni 5:37-39. E il Padre, che mi ha mandato, ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Gesù afferma molto chiaramente che i giudei non avevano mai sentito la voce del Padre, né visto il suo volto perché non credevano in lui. Come poteva dire questo Gesù quando sapeva che i giudei erano a conoscenza che i santi dell'Antico Testamento avevano sentito la voce nel giardino dell'Eden, Genesi 3:8, sul monte Sinai, Deuteronomio 4:33, 36, 5, 22, 26, e hanno visto Yahvé, Esodo 24, 10, 11. Evidentemente colui che si era rivelato non era il Padre di Gesù Cristo, ma Cristo stesso. Giovanni 1:18, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. 1 Giovanni 4:12, anche l'evangelista Giovanni sostiene che nessuno ha mai visto Dio, nonostante la scrittura affermi il contrario. L'unica spiegazione è che l'apostolo Giovanni faccia differenza tra il termine Dio e la persona di Yahvé. Non vi sono dubbi che Yahvé sia Dio? Ma con il termine Dio gli autori del Nuovo Testamento il più delle volte indicano le tre persone della Trinità che sussistono in una unica natura. Perciò, secondo Giovanni, nessuno ha mai visto la Trinità, ma Cristo Gesù è colui che l'ha rivelata. Se la Trinità ci è stata rivelata, allora l'uomo può comprendere il Dio Trino, anche se non nel senso totale. Questo studio potrebbe avere l'apparenza di adombrare la prima persona della Trinità, il Padre del nostro Signore, Gesù Cristo. Ma invece è esattamente il contrario. Innanzitutto perché Gesù lo ha detto. Il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Giovanni 5:22-23. Dunque non si può onorare il Padre se non si onora il Figlio. Inoltre Gesù ha sempre sostenuto che il Padre è identificabile in Lui e solo in Lui. L'Apostolo Giovanni non lascia altre alternative. Cid 1, E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. 5:37. Gesù disse ai farisei: Sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: Dove è tuo Padre? Gesù rispose: Voi non conoscete né me, né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. 8:18-19. Parlando delle pecore, Gesù disse: Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. 10:29-30. Gesù gridò e disse: Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 12:44. Filippo disse a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. 14:8-11. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. 2 Giovanni 1:9. Anche il profeta Isaia aveva profetizzato che Gesù Cristo sarebbe stato dichiarato Padre eterno, mettendo in enfasi che Cristo Gesù, in quanto Dio, è partecipe della natura paterna della Trinità. Isaia 9:5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. O il figlio al quale si riferisce Isaia non è Cristo, oppure Cristo Gesù, quale Yahweh, ha in comune con la prima persona del Padre la stessa natura divina ed eterna. In effetti, anche se in modo velato, Pietro si riferisce a questo. E se invocate come Padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. 1 Pietro 1:17. E, fuori di dubbio che chi giudicherà gli uomini sarà Cristo Gesù, perciò l'Apostolo Pietro riconosce che i connazionali ebrei invocavano Cristo come Padre anche se non era il Padre. Dunque, anche se il Padre e il Figlio sono due persone distinte, le caratteristiche del Padre sono state rivelate o manifestate tramite la persona di Cristo. Perciò, chi ha visto Cristo ha visto il Padre. Giovanni 14:8. Chi crede in Cristo crede nel Padre. Giovanni 5:37. Chi chiede a Cristo chiede al Padre. Giovanni 14:14. Chi onora Cristo onora il Padre. Giovanni 5:24. Chi professa il Figlio professa il Padre. 1 Giovanni 2:23. Chi dimora nella dottrina sia il Figlio che il Padre. 2 Giovanni 1:9. Chi odia Cristo odia il Padre. Giovanni 5:20. In Cristo Gesù sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Colossesi 2:3. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:9. Per questo motivo Cristo Gesù non è solo un uomo o solo Dio, ma ambedue, essendo il corpo umano del Dio Trino. Dio è stato manifestato in carne. 1 Timoteo 3:16. A Lui sia la gloria. 200. Contributo. Nuove evidenze che richiedono un verdetto edizioni C e Nuovo Testamento. R.O. Biblico Josh McDowell. L'unicità di Gesù Cristo, G.B.U. Chris Wright. Ellero.